24, i gialli della storia. 10 aprile 1991, ore 22. Un traghetto lascia il porto e poco dopo la partenza entra nella pancia di una petroliera in rada. Immediata la tragedia, un inferno di fiamme, di fumo, di petrolio. Dopo la collisione, nessun soccorso cerca il traghetto, malgrado giri in tondo, avvolto dalle fiamme, proprio davanti al porto. E così muoiono 140 persone. L'equipaggio della petroliera, invece, si salva per intero. Un ministro della Repubblica, la mattina dopo la collisione, parla subito di errore umano. Il comandante del porto, di nebbia fittissima. Da parte loro, a giornali e TV non pare vero di lanciarsi nello scoop. Sul traghetto, invece di governare la nave, erano tutti a vedere i Barcellona Juve in TV. 140 morti, questo è il bilancio della tragedia della Moby Prince, il traghetto che la sera del 10 aprile del 91, appena uscito dal porto di Livorno, è entrato in collisione con la petroliera Agip Abruzzo e si è incendiato. Una tragedia che non è mai stata chiarita completamente. Ma che cosa è successo realmente quella notte nel porto di Livorno? Com'è possibile che il comandante e il suo equipaggio non abbiano visto una petroliera alta come un palazzo di 5 piani? Davvero tutti quanti erano distratti a guardare la partita Barcellona-Juventus che si svolgeva in quel momento? E quella sera c'era nebbia oppure no? Questa è la sentenza del Tribunale di Firenze al processo d'appello del 5 febbraio 1999. Di nebbia si parla in quasi ogni pagina della sentenza. Sfilazze di nebbia e fili di nebbia, a pagina 5. Il banco aveva la forma di una nuvola, pagina 64. Sembrava fumo tanto da far dubitare che si trattasse di nebbia, pagina 64. Certamente la nebbia quella notte era strana, di nuovo a pagina 64. E così spigolando. Ma poi incontriamo questa frase. Sulla petroliera vi era un banco di nebbia che lasciava pienamente visibili le altre navi alla fonda. Come se questa nebbia, oltre ad avere l'aspetto di sfilazze difficili da avvertire e a forma di nuvola, avesse scelto di posarsi in tutta la rada solo sulla petroliera. Dunque, quella sera la petroliera aveva un banco di nebbia tutto per sé, esclusivo, su misura. 300 metri per un'altezza di 5 piani. Romeo Ricci, avvisatore marittimo, di turno all'imboccatura del porto la sera del 10 aprile 91. In quel momento vorrei premettere che c'era una visibilità discreta in quel momento. E quindi io da qui riuscivo a vedere sia l'Agip Abruzzo che a tutte le altre navi in rada. Federico Sgherri, il pilota di porto che accompagnò la Moby Prince nella sua ultima uscita la sera della tragedia. Ma la visibilità delle navi alla fonda era normale, e che l'Agip Abruzzo con i suoi fanali era illuminata. Anche per il pilota di porto ottima visibilità. Massimo Vernace, marinaio dell'Accademia Navale di Livorno, montava la guardia sul molo dell'Accademia, proprio di fronte alla rada. Ricordo di aver osservato la petroliera e sono certo che non vi era assolutamente nebbia. Domenico Mattera, comandante del rimorchiatore Tito Neri VII. All'uscita del porto la visibilità era buona, poi all'improvviso è scesa quasi a zero, a causa di quello che presumo fosse fumo. Infatti non era fresco come la nebbia e la gola bruciava. Ma ricordiamo le parole della sentenza. La nebbia quella sera aveva aspetto simile al fumo. Nebbia, insiste dunque la sentenza, e butta sul tavolo i nomi. Lo dicono Melis, Canavina, Termes, Olivieri, Rolla. E allora andiamo a leggere la deposizione di Paolo Termes, ufficiale dell'Accademia Navale. Non ho mai avuto la sensazione che vi fosse nebbia. E ancora Roger Olivieri, anche lui all'epoca ufficiale presso l'Accademia. Non ho assolutamente visto nebbia in mare quella sera. Dunque, molti testimoni dicono che quella sera la nebbia non c'era. Ma c'è una testimonianza che permette di mettere la parola definitiva su questo aspetto. A parlare il comandante dell'Agip Abruzzo, Renato Superina, tramite il suo marconista. Sono le 22.30 e 10 secondi quando sul canale 16 il comandante chiede aiuto. La collisione appena avvenuta e a rispondere è la capitaneria di porto di Viareggio. Mi trovate voi che chiamate incendio a bordo, qui è compagno Viareggio, cambio. Irata a Livorno, irata a Livorno! Livorno si vede con gli occhi! Agip Abruzzo, incendio a bordo, basta che uscite fuori, vedete le fiamme! Sembra evidente che la nebbia quella sera non ci fosse. Ma i periti del pubblico ministero arrivano alla conclusione che la nebbia c'era e che il monitor del radar, che era sulla plancia del traghetto, non era controllato. Ma Ugo Chessa, il comandante della Moby Prince, è considerato da tutti un comandante esemplare per severità e serietà. E allora com'è possibile che sia andato davvero così? Questa è la risposta che dà la sentenza. Con verosimiglianza si può imputare al comandante del Moby Prince l'imprudenza della persona esperta, non l'inesperienza. Ma è stato certamente ingannato dalla forma del tutto inusuale in cui si presentava il fenomeno nebbioso che, come più volte è stato ricordato, interessava la petroliera ma lasciava discretamente visibile il resto della rada. Questa circostanza può spiegare anche il mancato ricorso al radar, che con tutta probabilità era acceso e in funzione. Al radar si ricorreva principalmente in caso di nebbia e quella sera la nebbia era difficilmente avvertibile. E allora per provare a capire di più bisogna ripartire da quello che stava accadendo quella sera nella rada di Livorno. E il punto di partenza di quell'inchiesta sono due documenti. Da una parte il brogliaccio dell'avvisatore marittimo che fotografa la situazione nella rada alle 22. Dall'altra una lettera intestata Dipartimento della Difesa, Comando Traffico Militare, Terminal Battaglione Italia. A chi di competenza? Si notifica che le sottoindicate navi trasportano materiale di proprietà del governo degli Stati Uniti d'America destinato alla base USA-NATO di Camp Darby, Tombolo, Pisa. Le navi sono sotto il diretto controllo del Dipartimento di Difesa USA, militarizzate, pertanto esenti da qualsiasi tassa o visita di controllo a bordo. Cape Breton, bandiera USA. FDIM Junior, greca, Gallant 2, panamense. Distinti saluti. Quella sera del 10 aprile il materiale di proprietà del governo USA trasportato dalle navi militarizzate nella rada di Livorno non era altro che armi ed esplosivi utilizzate nella guerra del Golfo. Materiale, specifica la lettera, fuori il controllo delle autorità italiane. Dunque, dal brogliaccio vediamo che effettivamente la sera del 9 aprile le tre navi militarizzate americane con il loro carico pericoloso sono tranquillamente ancorate davanti a Livorno. Ma scorrendo il brogliaccio troviamo altri nomi. La Cape Siros, la Cape Flattery, la Cape Farewell, la Margaret Likes. Anzi, una di queste, benché di notte siano state vietate movimentazioni pericolose, viene vista da un testimone in operazioni di scarico. Capitano della Guardia di Finanza Cesare Gentile. A Camp Darby, vicino a Livorno, c'è una delle più grandi basi militari della NATO. Non c'è niente di strano, quindi, che delle navi militarizzate si incrocino nella rada di Livorno. Quello che è strano è che nessuno abbia mai detto, prima della testimonianza del capitano Cesare Gentile, che almeno una di quelle caricasse e scaricasse esplosivi di notte, a due passi dalla rotta dei traghetti di linea. Eppure, durante l'inchiesta, nessuno lo interrogherà mai. Ma quella notte non c'erano solo navi militarizzate americane. Scorrendo l'elenco delle navi presenti nel porto di Livorno, quella sera, si scopre un'altra nave. La 21 October 2, una nave che doveva servire a scaricare del pesce pescato in Somalia, nel porto di Gaeta, ma a Gaeta la nave si vede raramente. Controllando i suoi spostamenti si scopre che i porti toccati hanno poco a che fare con il commercio del pesce. Libano, Irlanda, Iran e poi Livorno, dove rimane per mesi, ufficialmente per riparazione. Sarà dopo l'inchiesta di Larry Alpi nel 94 sul traffico di armi in Somalia, indagini che la porteranno alla morte, che quella nave entrerà ancora nelle carte della magistratura italiana. Quella sera la 21 October 2 è nel porto di Livorno ancora per riparazione, ma una bettolina proprio quella sera la sta rifornendo. Perché una nave in riparazione dovrebbe fare carburante? Un testimone vede chiaramente che il molo dove dovrebbe essere attraccata è vuoto. Quindi quella nave era in navigazione nella rada. Un'ennesima stranezza. Siamo alle 22 circa del 10 aprile, la Moby Prince sta per lasciare il porto. Livorno, porto. Sono le 22. È una limpida sera di aprile. Moby Prince ha appena caricato 76 passeggeri, alcune auto e qualche camion. Gli uomini d'equipaggio sono 65. In plancia, oltre al comandante Chessa, sono presenti il secondo ufficiale, il timoniere e il pilota di porto, comandante Sgherri. Alle 22.03 il comandante Ugo Chessa ordina di mollare gli ormeggi. Destinazione Olbia, Sardegna. Il traghetto appena uscito dal porto. A nord ci sono un gruppo di navi, tra cui alcune militarizzate americane. Moby Prince deve percorrere un cono di divieto d'ancoraggio, andare verso il largo e poi verso la Sardegna. Le navi che deve controllare sono quelle ancorate a sud, la petroliera Agip Napoli, due navi militarizzate americane e l'Agip Abruzzo. Ma proprio sulla posizione dell'Agip Abruzzo ci saranno una serie di contraddizioni. Cerchiamo la posizione assunta dalla sentenza. È questa, 43 gradi, 29 e 60 primi e 10 gradi, 15 e 90 primi. Sono le coordinate geografiche. La posizione, dice la sentenza, è quella rilevata il 12 aprile dalla nave militare italiana Libra, ovvero due giorni dopo la collisione. Perché viene presa la posizione di due giorni dopo? Ma l'Agip Abruzzo non si era spostata? Dal verbale dell'ingegnere di macchina Pompiglio, che così descrive gli attimi dopo la collisione. Abbiamo attivato il motore principale. Pochi istanti dopo il comandante ha chiesto se la nave era pronta a muovere. Ho subito confermato. Dopo qualche istante è stato avviato motore avanti. La prima volta con moto avanti per 10 minuti. La seconda non saprei dire. La petroliera quindi si è spostata dopo l'impatto. Ma allora perché nell'inchiesta la posizione rilevata è quella di due giorni dopo, nonostante esista una registrazione in cui il comandante Superina comunica un'altra posizione? E su questo punto ci sono anche altre testimonianze. La risposta è semplice: l'Agip Abruzzo è probabilmente dentro al cono di divieto d'ancoraggio, ma secondo la sentenza d'appello, a pagina 64, non ci sono risultanze precise relative alla posizione dell'Agip Abruzzo prima della collisione. I dubbi dunque non riguardano solo la posizione della petroliera, ma anche l'orientamento: guardava a nord o guardava a sud? Ancora una volta la risposta è nella parola del comandante Superina. Stiamo suonando, solo che abbiamo la prua a sud e quindi difficilmente sentite. La frase di Superina è rivolta ai soccorritori in mare subito dopo la collisione che, accecati dal fumo, non vedono la petroliera in fiamme e chiedono al comandante della petroliera di suonare la sirena. L'orientamento della petroliera è importante per capire la dinamica della collisione. Il lato contro cui la Moby Prince andrà a collidere è il lato destro, per cui le ipotesi sono solo due. O la petroliera era in movimento, o la Moby Prince, per qualche misterioso motivo, stava tornando verso il porto. Ma l'orientamento è solo un altro dei tanti misteri di questa storia. Dopo la collisione, un portellone viene trovato aperto con una manichetta, in sostanza un tubo immerso nella cisterna, semicarbonizzato nelle estremità. Dai registri dell'avvisatore marittimo risulta che una bettolina era stata autorizzata a fare rifornimento alle due petroliere, l'Agip Abruzzo e l'Agip Napoli. E molti testimoni dichiarano di aver visto sulla petroliera una serie di bagliori che somigliavano a un incendio. Mentre osservavamo questo fenomeno strano su sta nave, abbiamo visto uscire anche il traghetto, il Moby Prince, dal porto di Livorno. Quindi i testimoni vedono le luci della petroliera spegnersi. Mentre stavo guardando questa nave con queste due fiammelle, c'è stato un blackout completo. E quello che la sentenza passa come nebbia? La nube biancastra mi sembrava vapore dovuto ad un tentativo di estinzione delle fiamme. Termes. Paolo Termes è un ufficiale di marina e quindi un testimone qualificato. Ma allora, che cosa stava accadendo a bordo dell'Agip Abruzzo e che cosa dice il giornale di bordo? Dopo la collisione, al momento dell'abbandono della petroliera, il comandante Superina dimentica sulla nave il giornale di bordo, quello dove si registra in pratica tutta la vita della nave. Nessuno per tre lunghi giorni lo cerca, capitaneria, inquirenti, magistrato. Il terzo giorno scoppia un incendio in plancia e il giornale dimenticato se ne va in fumo. Ora nulla più si potrà ricostruire della petroliera se non con i ricordi personali di chi era a bordo. E primo fra tutti il comandante della petroliera, Renato Superina. Leggiamo dalla sua deposizione del 13 aprile 91, due giorni dopo la collisione. Nessuno si era accorto dell'avvicinamento del traghetto perché il radar non era acceso. Il radar non era acceso, dice Superina. Eppure, tra i materiali filmati, in archivio abbiamo trovato un frammento di intervista allo stesso Superina, la notte della collisione, appena sceso sul molo. Il terzo aveva già il radar in funzione, tutto quanto, ha visto che sta nave veniva addosso e si pensava che accostasse. ma Superina non confermerà mai più quella dichiarazione. Infatti il terzo ufficiale sarà ritenuto colpevole di aver tenuto spento il radar nonostante quella strana visibilità, ma il reato verrà prescritto. Siamo ancora a qualche minuto prima della collisione e sulla Moby Prince il segnale radio è debolissimo. Quindi anche sul traghetto sta accadendo qualcosa di strano e la prova è nei cadaveri carbonizzati. Nessuno dalle analisi necroscopiche presenta fratture o traumi conseguenti a un evento traumatico, a una collisione. Quasi come se tutte le persone a bordo, in qualunque zona si trovassero, fossero, come dire, pronte e preparate all'impatto. Secondo elemento, quasi tutti i corpi dei passeggeri dell'equipaggio vengono rinvenuti, circa un centinaio, all'interno del salone di prua, il salone deluxe. C'è, come dire, una situazione di raduno dei passeggeri dell'equipaggio all'interno del salone che precede la collisione successiva con la petroliera. La Moby Prince manda un segnale di pericolo, ma il segnale è debolissimo. Poi arriva il segnale concitato del comandante Superina. Siamo incendiati! Siamo incendiati! C'è venuta la nave addosso! Una nave ci è venuta addosso, dice il comandante Superina dell'AGIP Abruzzo. Ma quando gli chiederanno chi sia la nave investitrice, dirà: sento la pistolina, quella che ci è venuta addosso. Per il comandante non ci sono dubbi, l'AGIP Abruzzo è stata investita da una bettolina. Ed è impossibile confondere una bettolina con un traghetto, viste le dimensioni completamente diverse. Dunque, il comandante sollecita i soccorsi per la sua nave che è in fiamme. E sono proprio i soccorsi l'altro nodo dolente di questa vicenda. Partono subito due rimerchiatori, una motovedetta della finanza, una della capitaneria, una dei vigili del fuoco e anche alcune barchette di ormeggiatori. Quello che manca è un comando, un coordinamento. Il comandante del porto di Livorno è l'ammiraglio albanese che si imbarca su una motovedetta, ma da quel momento la sua voce non si sentirà mai per dare un ordine. Questa la sua risposta alla commissione d'inchiesta ministeriale. Dall'ufficiale che dalla centrale operativa dava questi mezzi, queste disposizioni. E io assentivo nel senso che era giusto che si facesse così. Sì, il comandante del porto si limita ad ascoltare la radio e non ha di meglio da dire, così sta zitto. In tutta questa confusione, perché nessuno cerca la Moby Prince? Eppure non era difficile immaginare che l'unica nave che per rotta e orario poteva trovarsi nel luogo della collusione era proprio la Moby Prince. A un certo punto due ormeggiatori avvistano il traghetto alla deriva in fiamme. Si avvicinano e notano il mozzo Bertrand attaccato alla balaustra di poppa. Gli dicono di buttarsi giù e lui, dopo molte insistenze, si butta. Abbiamo raccolto un naufrago, dice che c'è ancora vettore sulla nave. La voce dell'ormeggiatore è concitata ma chiara. Il naufrago dice che sulla nave ci sono ancora persone da salvare. Qualche istante dopo lo ripete, ma aggiunge un particolare. Un naufrago l'abbiamo già raccolto. Adesso abbiamo una CP di fianco a noi che indugia. Una CP è una motovedetta della capitaneria. Le parole degli ormeggiatori sono pesanti come un masso. La CP indugia. Più che un rimprovero sembra un'accusa. In soldoni, lì su Moby in fiamme si brucia, si muore. E questi non fanno nulla. Andare a poppa della nave, il naufrago ci dice che ci sono ancora dei naufraghi da salvare. Gli ormeggiatori continuano a chiedere aiuto, continuano a ripetere che secondo il mozzo che hanno appena salvato ci sono altre persone ancora vive da salvare, ma nessuno interviene. Dalla radio solo silenzio. Poi la capitaneria di porto carica il mozzo infreddolito e intossicato, ma non si muove. Rimane ferma per mezz'ora, poi chiede di rientrare perché il mozzo sta male e il permesso gli viene accordato. Subito dopo si svolge un'altra conversazione tra capitaneria e l'ormeggiatore che ha salvato Bertrand. Il naufrago ha dichiarato se si è buttato in mare altri oppure no. Il naufrago ha detto tutti morti bruciati. Strano, appena due minuti fa l'ormeggiatore gridava il naufrago dice che ci sono persone da salvare e ora gli fa dire esattamente il contrario. Ma ad un ascolto attento c'è una cosa che non torna. La voce ora è tranquilla, i toni senza più passione. Come se l'ormeggiatore tradisse qualcosa, un boccone amaro inghiottito. Ma perché la motovedetta ha indugiato di fronte al disperato appello degli ormeggiatori? Eppure Bertrand ha ragione, sul traghetto ci sono ancora persone vive da salvare. La conferma viene dall'analisi del sangue eseguita sulle vittime. Il tasso di monossido di carbonio trovato nel sangue dà la misura del tempo in cui una persona ha inalato il fumo. E in alcuni dei cadaveri il tasso di monossido nel sangue è superiore al 90%. E questo significa che quelle persone hanno respirato fumo per diverse ore. Su quel traghetto dunque c'erano persone ancora vive che potevano essere salvate. Quello che è certo è che quella sera nel porto di Livorno c'era un traffico inconsueto. Ascoltiamo la testimonianza del giornalista Enrico Fedrighini, autore del libro Moby Prince, un caso ancora aperto. Quella sera in rada c'è un gran traffico ingiustificato e inspiegato di navi senza volto e senza identità, ma viste e rintracciate da alcune registrazioni radar e da alcune testimonianze. C'è la traccia, ma proprio la traccia di un'imbarcazione che procede ad elevata velocità in direzione 67 gradi, che è una rotta di potenziale collisione rispetto alle navi in uscita dal porto quella sera. Poi questa traccia si perde. E quella sera c'era anche un elicottero visto da molti testimoni, ma l'inchiesta accerterà che nessun elicottero italiano ha sorvolato la zona del disastro. C'è un ultimo documento che vale la pena di valutare. Il 30 novembre del 92 una voce anonima chiama l'emittente livornese Telegranducato. Dice di essere un civile che lavora alla base NATO di Camp Derby. Io lavoro a Campo Derby e sono alla controllo dei radar dei computer. Quella sera alcuni colleghi militari e civili si misero a ridere quando dissero che loro stavano dando colpa alla nebbia, perché la nebbia quella sera non ci fu altro, furono accesi dei fumogeni. Quando c'è di mezzo anche il discorso militare è un po' una complicazione, capito? Perché dico una cosa soltanto, non so se può rispondermi. Secondo lei, se c'è qualcosa che i militari sanno, magari la magistratura o comunque anche l'opinione pubblica non conosce, qualcosa di particolarmente rilevante? Noi abbiamo rilevato tutto, quindi tracciati radar di quella sera della nave ci sono. Questa testimonianza va presa naturalmente per quello che è. Una voce anonima che dice di avere le prove di qualcosa che non spiega. L'unica cosa certa è che per quei 140 morti è stato ritenuto colpevole soltanto il terzo ufficiale dell'AGIP Abruzzo per non aver tenuto acceso il radar di bordo della petroliera, ma il reato è caduto in prescrizione. La compagnia armatrice è stata condannata al risarcimento dei danni ai familiari delle vittime. Eppure su questa tragedia rimangono ancora molti interrogativi. Quali erano tutte quelle navi che non sono state identificate? Che cosa facevano nella rada di Livorno? Dove è andata quella notte il peschereccio 21 ottobre 2? Perché ha fatto rifornimento di carburante se ufficialmente era in riparazione? Perché per ore nessuno ha cercato la Moby Prince, che pure era in fiamme davanti al porto di Livorno? C'è stata un'esplosione sulla Moby Prince? Se sì, che matrice aveva? Perché i soccorsi non sono stati coordinati? Dov'era realmente l'AGIP Abruzzo? Perché il comandante della petroliera ha dato indicazioni contraddittorie sulla posizione e sull'orientamento della prua? Perché il giornale di bordo della nave è stato dimenticato in plancia e lasciato bruciare 3 giorni dopo? Perché molti testimoni hanno mentito? E infine, perché è impossibile arrivare alla verità sulla morte di 140 persone? Hanno collaborato ai Gialli della Storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix24 sul sito www.radio24.it.